Io non lo so, io lo sento benissimo. Cerca un canale, Antubu. Gaffa. E andiamo sul 24, no, più giù andiamo, sul 5, cosa ne gioco? E io sul 5, Ehi, in AM. Ehi. Odor arrivati originale. Allora, chicos, mi sentite? Io sì, no. Devo riaprire qua. Ah, ok. Io sì, Aldo. Ehi, già ci sono. Benito, mi senti? Che c'è Benito, una volta lo sento benissimo, l'altro giorno stavo dicendo che è una meraviglia, il mondo non esce manca a balla. Ma devo fare io la tappa a mettere a posto l'antenna? Tanto non come sentirlo, non lo so. Cioè, magari probabilmente magari sono negativo a parte, cosa ne so. Guarda, l'altro giorno, già tu intendi bacio bacio, l'altro giorno stavo facendo una cannonata, mi arrivava, una cannonata. E adesso torna problemi. E lo vedo io giù a capo a mettere a posto l'antenna. Io sono bravo, E qua sei 5, Benito. Sei 5, non so se ce l'hai basta, boh, che passata. Vedi un po'. Allora, 1, 2, 3, provo, 1, 2, 3, provo, il microfono siamo a 7, mentre il mic tra la I e la C, prova M, B, T, 4, prova, 1, 2, 3, 1, 2, 3, aspetta che ti faccio... allora, aspetta che ti faccio il bagaglio, la prova, allora... 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Mi sta rubando il video. Adesso c'è la M, tra la I e la M. Ecco, adesso è all'inizio della M. Abbassa ancora. Ecco. Tanto è caldo adesso, vedi un po', com'è adesso? Te lo metto a metà, guardo a vedere, 5-9, 5-9. Ok, questo lo faccio così. Adesso ti rimetto l'altro così mi fai un audio dell'altro. Oh, bene, questo è Super Sideric. Posso spingere dal microfono. Guarda un po', perché ieri con Baracchino mi stava ascoltando Giulio, mi diceva se aumenti vai a sporcare la radio, però dice io ti sto ascoltando col Baracchino. Vedi un po', adesso è a 8. Cosa? Allora, tu dimmi se devo toccare il microfono o se devo toccare il macchinino. Allora, questo è il massimo del microfono. Allora, messo a 9 il microfono. Aumentando la macchina, guarda a vedere 1, 2, 3, 5, 9. Allora adesso te lo metto sotto la C, un macchina sotto la C adesso. Si può tenere così allora? Perché così io non posso la sporca la radio, così. Se lo tengo sotto la C, dai. Sto sporcando la radio così. Sotto la macchina e sto migliorando, cioè sto toccando. Sotto la I, vedi un po' 1, 2, 3. Troppo bruttosa, c'ha la caccia originale, è tutto originale, solo il circuito è stato ricostruito da zero, perché si era bruciato un componente che non si trova più, e allora è stato ricostruito il circuito. E tu, vabbè, fatemi la registrazione di questo. Allora, prova microfono, 1, 2, 3, prova microfono, 1, 2, 3, prova, 5, 9, 5, prova, super, si ricca, vedi un po', 1, 2, 3, 9, 10. Si va benissimo anche questo, almeno lo lascio così, capito? 1, 2, 3, 1, 2, 3, aspetta che abbasso un po' l'altro, perché sennò mi tocca mettere in scala 200, non lo smetto, perché sbatto l'altro sennò. Ok. Uso. Qui adesso mi sto facendo un altro progettino e te lo piazzo un attimino, vedi un po' come va, sempre con la lunghezza lì, e vedi un po' come va. KK. Ma tu di nuovo, adesso sei 5. Infatti. Allora mi metto subito all'opera a finire con l'altro progetto, così la provi. Chiappa chiappa. E probabilmente lì dove c'è il condensatore varia quando tocca, l'hanno spulsi perché bastava di poco. Stiamo dando bella giornata, bella giornata. A tu, rientrato sì. Sei 5 fisso. Non lo faccio. Sollevato vorrebbe, ma lì è un casino, se la sollevi migliora, ma è un casino sollevarla. Hola chicos, anche KK. Ma così è. tu più vicino, tu come hai aperto di me, ma cosa si intende? Che ve l'hai anch'io, papà? Io qua ce l'ho chiuso, ce l'ho. Se non senti far niente proprio, cioè, perché stava parlando l'hai annientato. Arriva a 5 qua, tappa a tappa. No, non è che non lo sento sbibigliare. Cioè, se a te ti arriva a 5, cazzo, ma tu sei aperto per lui. E hai così viraglio. Ce l'hai di fronte tu. Io no, io non ce l'ho di fronte. Beh, io mi sento che vado a fare a finire quel progettino là, vai. Se ci sentiamo su WhatsApp. Capo, allora io sai cosa faccio? Scendo giù e mi faccio il sugo. È la matriciana. Capo? No, oggi lo faccio al tonno. Bello. Va bene, ci aggiorniamo dopo. Ciao, ciao.